cupo e già la pioggia scroscia, il cuore mio si immerge nell'angoscia, perché stanotte tutto è naufragato, lei m'ha lasciato. Vagando per la casa senza tregua c'è un'ombra che mi segue, è l'ombra del mio cane, che mi è fedele, mi vuol bene. Povero amico mio, siamo rimasti soli tu ed io. La padroncina, sai, ci ha abbandonati, vuoi saperlo perché? Era stanca di me. Invano cercherai le sue carezze, ed io non posso darti che tristezza. L'amavo tanto e se n'è andata via, e sto morendo dalla gelosia. Povero amico mio, siamo rimasti soli tu. Cercherai la sua carezza, ed io non posso darti che tristezza. L'amavo tanto e se n'è andata via, e sto morendo dalla gelosia. Povero amico mio, siamo rimasti soli tu ed io.